Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Emons Audiolibri. Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, sesto volume, Albertine scomparsa. Legge Lino Guanciale, traduzione di Giovanni Raboni. Capitolo primo. Il dolore e l'oblio. Mademoiselle Albertine se n'è andata. Come si spinge più in là della psicologia la sofferenza, in fatto di psicologia? Un attimo prima, analizzandomi, avevo creduto che questo separarsi senza rivedersi fosse precisamente ciò che desideravo. E confrontando la mediocrità dei piaceri offertimi da Albertine con la ricchezza dei desideri che mi impediva di realizzare, avevo concluso, trovandomi sottile, che non volevo più vederla, che non l'amavo più. Ma quelle parole, Mademoiselle Albertine se n'è andata, avevano prodotto nel mio cuore una sofferenza tale che sentivo di non potervi resistere oltre. Così, quel che avevo creduto non essere niente per me era, molto semplicemente, tutta la mia vita. Come ci si ignora. Bisognava farla cessare immediatamente la mia sofferenza. Tenero verso me stesso come mia madre verso la nonna morente, mi dicevo, con la stessa buona volontà con cui si cerca di non lasciar soffrire chi si ama, abbi un secondo di pazienza, ti si troverà un rimedio, sta tranquillo, non ti si lascerà soffrire così. Fu a quest'ordine di idee che si rivolse il mio istinto di conservazione alla ricerca dei primi calmanti da mettere sulla mia ferita aperta. Tutto ciò non ha nessuna importanza perché la farò tornare subito. Penserò a quali mezzi usare, ma in ogni caso stasera sarà qui, dunque è inutile tormentarsi. Tutto ciò non ha nessuna importanza, non mi ero limitato a dirmelo. Avevo tentato di darne l'impressione a Françoise, evitando di mostrarle la mia sofferenza, giacché il mio amore, persino nel momento in cui lo provavo con tanta violenza, non dimenticava di voler apparire come un amore felice, un amore condiviso, soprattutto agli occhi di Françoise, che non amava Albertine e aveva sempre dubitato della sua sincerità. Sì, poco fa, prima che entrasse Françoise, avevo creduto di non amare più Albertine. Avevo creduto di non trascurare nulla da analista meticoloso. Avevo creduto di conoscere perfettamente il fondo del mio cuore. Ma la nostra intelligenza, per grande che sia, non può cogliere gli elementi che lo compongono e che rimangono insospettati finché, dallo stato volatile in cui si mantengono per la maggior parte del tempo, un fenomeno capace di isolarli non li abbia sottoposti a un principio di solidificazione. Mi ero ingannato, credendo di veder chiaro nel mio cuore. Ma la conoscenza che non m'era venuta dalle più fini percezioni dell'intelletto, ecco, che me l'aveva data, dura, lampante, strana, come un sale cristallizzato, la brusca reazione del dolore. Avevo una tale certezza d'avere Albertina accanto a me, e l'abitudine, di colpo, mi appariva con un nuovo volto. Fino a quel momento l'avevo considerata soprattutto come un potere annichilente che sopprime l'originalità e fin la coscienza delle percezioni. Adesso la vedevo come una divinità temibile, così ribadita su di noi col suo volto insignificante, così incrostato nel nostro cuore, che quando si distacca, quando si distoglie da noi, ci infligge questa divinità che quasi non distinguevamo, sofferenze più terribili di qualsiasi altra, ed è tanto crudele allora quanto la morte. La cosa più urgente era leggere la lettera di Albertine, dato che volevo prendere una decisione circa i mezzi per farla tornare. Sentivo di possederli, perché, essendo l'avvenire ciò che ancora non esiste se non nel nostro pensiero, esso ci sembra ancora modificabile con l'intervento in extremis della nostra volontà. Ma nello stesso tempo ricordavo di averlo visto soggetto a forze diverse dalla mia e contro le quali, se anche avessi disposto di più tempo, non avrei potuto nulla. A che serve che l'ora non sia ancora suonata se non possiamo nulla su quanto vi accadrà? Quando Albertine era in casa mia, ero ben deciso a conservare l'iniziativa della nostra separazione e adesso se n'era andata. Aprii la lettera di Albertine. Era così concepita. Amico mio, perdonatemi se non ho osato dirvi a viva voce le poche parole che seguono, ma sono così vile. Ho sempre avuto tanta paura di fronte a voi che neppure sforzandomi ho avuto il coraggio di farlo. Ecco quello che avrei dovuto dirvi. Fra noi la vita è diventata impossibile. Del resto avete visto, con la vostra scenata dell'altra sera, che c'era qualcosa di cambiato nei nostri rapporti. Ciò che si è potuto accomodare quella notte diventerebbe irreparabile fra qualche giorno. Meglio dunque, dato che abbiamo avuto l'avventura di esserci riconciliati, lasciarci da buoni amici. È per questo, caro, che vi mando questo biglietto. E vi prego d'essere tanto buono da perdonarmi se vi do un po' di dolore, pensando a quello immenso che avrò io. Mio adorato, non voglio diventare vostra nemica. Mi sarà già abbastanza duro diventarvi a poco e ben presto indifferente. Poiché dunque la mia decisione è irrevocabile, prima di farvi consegnare questa lettera da Françoise le chiederò i miei bauli. Addio. Vi lascio il meglio di me. Albertine. Tutto questo, mi dissi, non significa niente. È persino meglio di quanto pensassi, giacché, dal momento che non pensa niente di tutto questo, evidentemente l'ha scritto solo per far colpo, perché io prenda paura e smetta d'essere insopportabile con lei. Bisogna provvedere al più presto perché Albertine sia di ritorno, stasera. È triste pensare che i Bontemps siano gente losca che si serve della nipote per estorcermi del denaro, ma che importa? Se anche dovessi, per ottenere che Albertine sia qui stasera, dare metà del mio patrimonio a Madame Bontemps, ne resterà abbastanza ad Albertine e a me per una vita piacevole. E contemporaneamente calcolavo se avrei avuto il tempo in mattinata di ordinare lo yacht e la Rolls Royce che lei desiderava, non pensando nemmeno più, scomparsa ogni esitazione, che regalarglieli m'era potuto apparire poco ragionevole. Anche se l'adesione di Madame Bontemps non sarà sufficiente, se Albertine non vorrà obbedire a sua zia e per tornare porrà come condizione d'avere finalmente la piena indipendenza e bene, per quanto mi possa dispiacere, gliela concederò. Uscirà da sola, a suo piacimento. Bisogna saper accettare dei sacrifici, per dolorosi che siano, per la cosa a cui si tiene di più e che, contrariamente a quanto credevo stamane sulla base dei miei esatti e assurdi ragionamenti, è che Albertine viva qui. Posso dire del resto che concederle quella libertà mi sarebbe stato davvero doloroso? Direi una bugia. Già di frequente avevo sentito che la sofferenza di lasciarla libera di compiere il male lontano da me era ancora minore forse del genere di tristezza che m'accadeva di provare sentendola annoiarsi con me in casa mia. Probabilmente nel momento preciso in cui m'avesse chiesto di andare da qualche parte, di lasciarla fare, con l'idea che ci fosse qualche orgia organizzata, per me sarebbe stato atroce, ma dirle: prendete la nostra barca o il treno, andate per un mese in questo o quel paese che non conosco, dove non saprò niente di quel che farete, questo ma aveva spesso allettato col pensiero che, lontano da me, per confronto, lei mi avrebbe preferito e al ritorno sarebbe stata felice. Lei stessa, d'altronde, sicuramente lo desidera. Non esige affatto quella libertà alla quale, d'altronde, offrendo ogni giorno ad Albertine nuovi piaceri, riuscirei facilmente ad imporre, giorno dopo giorno, qualche limitazione. No. Quello che Albertine ha voluto è che io non fossi più insopportabile con lei e soprattutto come un tempo Odette con Swann, che mi decidessi a sposarla. Una volta sposata, alla sua indipendenza non ci terrà più, ce ne staremo qui tutte e due così, felici. Certo, significava rinunciare a Venezia, ma quanto le città più desiderate come Venezia, a maggior ragione le padrone di casa più gradevoli, gli svaghi e molto più di Venezia, la duchessa di Guermantes, il teatro, quanto città come Venezia diventano pallide, indifferenti, morte, quando siamo uniti a un altro cuore da un legame tanto doloroso e che ci impedisce di allontanarci. Albertine ha, del resto, perfettamente ragione su questa faccenda del matrimonio. Persino la mamma trovava ridicoli quei ritardi. Sposarla era ciò che avrei dovuto fare da molto tempo, ciò che sarà necessario fare, ciò che l'ha indotta a scrivere quella lettera di cui non pensa una sola parola. E solamente perché ciò si realizzi, ha rinunciato per qualche ora a qualcosa che deve desiderare tanto quanto io desidero che lei lo faccia, tornare qui. Sì, è questo che ha voluto. È questa l'intenzione del suo atto, mi diceva la mia compassionevole ragione. Ma sentivo che nel dirmelo, la mia ragione si situava sempre all'interno della stessa ipotesi che aveva adottata sin dall'inizio. Ora, capivo bene che era stata l'altra ipotesi a ricevere una serie ininterrotta di conferme. Probabilmente questa seconda ipotesi non avrebbe mai spinto la propria audacia sino a contemplare espressamente che Albertine potesse aver avuto una relazione con Mademoiselle Vinteuil e la sua amica. E tuttavia, quando ero stato sommerso dall'invasione di quella notizia terribile, nel momento in cui entravamo nella stazione di Ancarville, era stata la seconda ipotesi a venir confermata. Essa poi non aveva mai previsto che Albertine potesse lasciarmi di sua iniziativa, in questo modo, senza preavvisarmi né darmi il tempo di impedirglielo. Ma se, comunque, a seguito del nuovo immenso balzo che la vita mi aveva appena fatto fare, la realtà che mi si imponeva era nuova quanto quella a cui ci mettono di fronte la scoperta di un fisico, le inchieste di un giudice istruttore o i ritrovamenti di uno storico sui retroscena d'un delitto o d'una rivoluzione, tale realtà superava sì le gracili previsioni della mia seconda ipotesi, ma ciò nonostante le avverava. Questa seconda ipotesi non era quella dell'intelligenza, e il timor panico che avevo provato la sera in cui Albertine non m'aveva baciato, la notte in cui avevo sentito il rumore della finestra, questo timore non era ragionato. Ma, e quanto segue lo mostrerà più compiutamente, così come alcuni episodi hanno già potuto indicarlo, il fatto che l'intelligenza non sia lo strumento più sottile, più potente, più appropriato per cogliere il vero, non è che una ragione in più per cominciare dall'intelligenza e non dall'intuitivismo dell'inconscio, da una fede preconcetta nei presentimenti. È la vita che, a poco, caso per caso, ci consente di accorgerci che quanto è più importante per il nostro cuore o per il nostro spirito, non lo apprendiamo col tramite del ragionamento, ma con quello di altri poteri. Ed è allora la stessa intelligenza che, rendendosi conto della loro superiorità, abdica col ragionamento in loro favore e accetta di diventare loro collaboratrice e inserviente. Fede sperimentale. L'infelicità imprevista con cui ero alle prese mi sembrava, anch'essa come l'amicizia di Albertine con due lesbiche, d'averla già conosciuta, per averla letta in tanti segni nei quali, malgrado le affermazioni contrarie della mia ragione basate sulle parole della stessa Albertine, avevo ravvisato la sua stanchezza, il suo orrore di vivere così da schiava, e che lasciavano una traccia, come con dell'inchiostro invisibile, sul rovescio delle pupille tristi e sottomesse di Albertine, sulle sue guance bruscamente accese da un rossore inesplicabile, nel rumore della finestra che s'era bruscamente spalancata. Certo, io non avevo mai osato interpretarli sino in fondo e formare espressamente l'idea della sua partenza repentina. Con l'animo equilibrato dalla presenza di Albertine, avevo pensato solo a una partenza combinata da me per una data indeterminata, cioè posta in un tempo inesistente. Di conseguenza, Avevo avuto solo l'illusione di pensare a una partenza, come chi si figura di non aver paura della morte perché ci pensa quando sta bene, non facendo altro, in realtà, che introdurre un'idea puramente negativa nel mezzo d'una buona salute che l'approssimarsi della morte farebbe appunto venir meno. D'altra parte, se anche l'idea della partenza di Albertine, da lei stessa voluta, mi si fosse presentata alla mente mille volte e nel più chiaro, nel più netto dei modi, non per questo avrei mai potuto sospettare cosa sarebbe stata per me, vale a dire nella realtà, quella partenza. Che cosa originale, atroce, sconosciuta, che male, assolutamente nuovo. A quella partenza, se l'avessi prevista, avrei potuto pensare di continuo per anni senza che tutti quei pensieri, messi uno in fila all'altro, avessero il minimo rapporto, non solo di intensità, ma di somiglianza con l'inimmaginabile inferno che Françoise m'aveva svelato dicendomi «Mademoiselle Albertine se n'è andata». Per rappresentarsi una situazione ignota, l'immaginazione prende a prestito elementi noti e per questo non se la rappresenta affatto. Ma la sensibilità, anche la più fisica, riceve, per così dire, il solco del fulmine, la firma originale e lungamente indelebile del nuovo evento. E a malapena osavo dire a me stesso che se l'avessi prevista quella partenza, sarei forse stato incapace di rappresentarmela nel suo orrore e persino, se Albertine me l'avesse annunciata e io l'avessi minacciata, supplicata, di impedirla. Quanto mi era lontano adesso il desiderio di Venezia, come un tempo a Combray quello di conoscere Madame de Guermantes quando veniva l'ora in cui non tenevo più che a un'unica cosa, avere la mamma in camera mia. Ed erano proprio, in effetti, tutte le inquietudini provate sin dall'infanzia, che, richiamate dalla nuova angoscia, erano accorse a rafforzarla, ad amalgamarsi con essa in una massa omogenea che mi soffocava.